GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Arrestati due passeur che avevano appena portato in Italia una ventina di migranti. Il furgone è finito fuori strada, a bordo anche donne e bambini portati al Burlo per controlli. Ancora una scossa di terremoto in Friuli, la terra ha tremato alle 22.13, la magnitudo era di 2.9, l'epicentro a 2 km da Tolmezzo, l'esperto nessun allarme. Truffatore arrestato al centro commerciale di Villesse, cercava di ottenere un finanziamento per uno smartphone con documenti e busta paga rubati da un'altra persona. La riforma dei servizi per la disabilità al centro della discussione oggi della terza commissione del Consiglio regionale, più tardi si parlerà di sanità e nel pomeriggio della legge sul fine vita. Stato di agitazione per i dipendenti di Arriva Udine, l'azienda di trasporto pubblico locale del capoluogo friulano, a creare tensione, una spaccatura all'interno dei sindacati. 650 aziende provenienti dall'Italia e dall'estero e 20.000 visitatori attesi. Alla fiera di Pordenone torna SICAM, il salone internazionale dei componenti per l'industria del mobile. Attesa nelle prossime ore una decisione sulla partita che la Triestina giocherà venerdì contro il Vicenza. Dopo la pioggia di domenica, il manto erboso del Rocco potrebbe non essere agibile. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Anna Vitagliani. Sono già stati dimessi bambini e mamme, tutti migranti, portati all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste dopo l'incidente di ieri sera poco dopo il confine. Erano ammassati all'interno di un furgoncino che non si è fermato all'alt della polizia e che ha finito la sua corsa fuori strada. A 50 anni dai primi 5 morti lungo la rotta balcanica alle porte di Trieste, ieri sera un altro episodio drammatico alla periferia della città, che rappresenta ormai uno dei punti terminali delle decine di migliaia di migranti che affrontano la rotta. Un furgoncino con targa polacca con a bordo 21 migranti, di cui 10 minori e 4 donne, non si è fermato al punto di controllo della polizia di frontiera, non lontano dal valico italo-sloveno di Fernetti. L'autista, un romeno, assieme ad altri due connazionali, vedendo la paletta della polizia, ha premuto sull'acceleratore imboccando la grande viabilità, scattato l'inseguimento e terminato alcuni chilometri dopo, quando il van, uscendo dalla grande viabilità ad alta velocità, ha finito la propria corsa contro il guardrail. Scossi e contusi i migranti, tutti con passaporto turco ma di etnia curda. I minori con le madri sono stati accompagnati all'ospedale infantile cittadino e sono già stati dimessi. Per loro ora le procedure di riconoscimento. Arrestati due dei tre passeur. Costanti i controlli lungo l'area confinaria, ribadisce il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello. Abbiamo sempre considerato quell'area un'area sensibile, i controlli ci sono sempre stati e a testimonianza di questo dall'inizio dell'anno ci sono stati oltre 80 arresti di passeur, come d'altra parte è accaduto nell'episodio di ieri sera. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato arrestato e condotto nel carcere minorile di Treviso il giovane tunisino che la sera del 30 settembre a Trieste aveva accoltellato un ragazzo macedone. Erano le 5 del mattino, il giovane macedone si trovava presso un distributore automatico di tabacchi in via dell'Orologio insieme ad alcuni amici quando è stato circondato ed aggredito da un gruppo di almeno 5 ragazzi col pretesto di sanare un diverbio avuto nei pressi di un locale cittadino alcune ore prima. Uno di questi, il giovane tunisino, ha accoltellato ripetutamente alla schiena al ragazzo macedone, che immediatamente dopo l'arrivo dei carabinieri veniva trasportato al pronto soccorso cittadino, dove gli sono state riscontrate lesioni dal coltello, una delle quali gli aveva leso un polmone. E un altro 18enne tunisino fuggito dal centro per i rimpatri di Gradisca di Sonzo è stato rintracciato dalla Guardia di Finanza a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane è stato bloccato e portato in caserma nella serata di ieri. Al termine delle formalità di rito sarà portato al CPR di Roma. Chiede un finanziamento per acquistare uno smartphone da 1.600 euro in un negozio del centro commerciale di Villesse, ma una volta presentati i documenti il dipendente si insospettisce e chiama il 112. L'uomo si allontana ma viene bloccato dai carabinieri nel parcheggio, mentre assieme ad un complice a bordo di una vettura a noleggio cerca di lasciare l'area. Dai carabinieri viene trovato in possesso di una carta d'identità, di una tessera sanitaria, di un cedolino paga e riconducibile all'ignara vittima di un furto d'identità. Nell'auto una console per videogiochi e un altro cellulare. Dagli accertamenti è emerso che altri tentativi di truffa con identità diverse non erano andati a buon fine nei giorni precedenti. L'uomo, un 33enne di origine campana con diversi precedenti, è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti, e truffa, sostituzione di persona e falsa attestazione sull'identità personale. Ancora una scossa di terremoto in Friuli, la terra ha tremato alle 22:13, la magnitudo era di 2.9, l'epicentro a 2 km a nord-est di Tolmezzo ad una profondità di 8 km. Non risultano danni a persone o cose, ma sentiamo da Alberto Snidergic del Centro Sismologico di Udine se ci dobbiamo preoccupare. Magnitudo 2.9 della scala Richter, profondità 7,5 km, epicentro 1 km a sud di Tolmezzo. Questi i dati della scossa sismica della scorsa notte. Come valutarla? In che ambito si è verificata? Lo chiediamo ad Adriano Snidersig del Centro Sismologico di Udine. Ma è una scossa normale dell'attività di quella zona, che Tolmezzo si sa che è una zona sismica, perciò ha questi terremoti. Ha degli episodi un po' più energetici e poi diciamo c'è una sismicità di fondo normale. È un 2.9, la magnitudo è relativamente bassa. Il terremoto più forte è stato quest'anno a marzo ed è stato un 3.3, poi c'è seguito uno sciame sismico che poi è andato a decadere nel giro di qualche settimana, di una settimana. È una zona dove diciamo cadono questi fenomeni, ogni tanto arriva una scossa più energetica come magari quella del 2019 che era un 3.8 a Preone, perciò siamo già a sud-est di questa scossa, sud-est di Tolmezzo. Ha un evento più energetico che poi diciamo si risolve con una sismicità che va a decadere. Una zona conosciuta, e cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni, i prossimi mesi? Ci potrà essere ancora qualche scossa che può essere come questa, però che non dovrebbero influenzare la popolazione. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. La polizia di Pordenone ha eseguito stamane il provvedimento di sospensione dell'attività del Romi Bar di Azzano Decimo. Il provvedimento si deve al fatto che quest'anno il locale è stato teatro di numerosi alterchi e discussioni tra avventori per lo più pluripregiudicati che, ubriachi o sotto l'effetto di droga, litigavano dando vita a colluttazioni e risse all'interno e all'esterno del locale. Tutto questo, si legge in un comunicato della questura, ha alimentato una forte sensazione di insicurezza, oltre che di insofferenza negli abitanti della zona. Sono le 12:38, diamo uno sguardo al meteo. Il cielo è sereno o poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle ore 11. Trieste 13,5 gradi, vento da est-nord-est bora a 30 km orari, Udine, Pordenone e Gorizia 13 gradi, Tolmezzo 9, Forni di Sopra 8 gradi, Piancavallo 6,5 gradi, Tarvisio 5 gradi, Sappada 4,5 gradi, Monte Zoncolan 5,5 gradi, Monte Lussari 2 gradi, tornando sulla costa grado 14 gradi, Lignano 13. Le temperature in regione si sono dunque bruscamente abbassate. Questa mattina, solo per citare un esempio, alle 6 del mattino a Pordenone c'erano 4 gradi. Ma cosa ci aspetta? Sentiamo il previsore Sergio Nordio dell'ARPA. Il tempo tornerà a cambiare abbastanza rapidamente. Dopo questo primo assaggio di temperature basse, siamo scesi anche sotto zero in montagna in queste mattinate, si avvicina una depressione che arriverà giovedì sostanzialmente sulla regione, una depressione che porterà un afflusso di aria molto mite e umida dal Mediterraneo, quindi ci aspettiamo giovedì e poi soprattutto venerdì, ma anche sabato e domenica, ci aspettiamo delle piogge che localmente saranno anche intense, accompagnate da vento forte, soprattutto nella giornata di venerdì, vento da sud, quindi scirocco sulla costa, ma sarà vento forte anche in montagna. Le temperature torneranno ad aumentare. Quanto si può dire? Sì, diciamo che è previsto appunto l'arrivo di aria molto mite, quindi sulla costa con queste condizioni torneremo anche intorno ai 23-24 gradi e intorno ai 20-22 gradi anche sulla pianura. Dalle ultime dichiarazioni sulla manovra del ministro dell'economia Giorgetti sembra di capire che il super bonus, per come lo abbiamo conosciuto, è destinato a sparire. Per i condomini l'agevolazione scenderà al 70%, mentre per villette unifamiliari sarà cancellata anche nella versione depotenziata e limitata ai soli redditi più bassi. Dal 1 gennaio per i condomini l'agevolazione passerà dal 90 al 70% e dal 2025 scenderà ulteriormente al 65%. Per villette e unifamiliari sarà invece cancellata per tutti. Sul capitolo cessione del credito e sconto in fattura, il ministro dell'economia Giorgetti ha già anticipato che i lavori devono essere completati entro la fine dell'anno se si vuole beneficiarne, altrimenti parte il meccanismo delle detrazioni senza la possibilità di sconto in fattura e cessioni, salvo quelli maturati in precedenza. Invece ancora nessuna novità per risolvere il problema dei crediti incagliati. In Friuli Venezia Giulia gli investimenti ammessi a detrazione, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Agenzia Nazionale Enea, riferiti a settembre scorso, sono stati di oltre 2 miliardi e 119 milioni, di cui l'84% riguarda lavori già conclusi. All'appello manca ancora un 16% che deve essere completato entro il 31 dicembre per beneficiare dell'agevolazione con le vecchie regole. Gli investimenti per gli interventi di efficientamento energetico agevolati hanno interessato complessivamente 12.222 edifici, di cui 1.478 condomini, 7.658 edifici unifamiliari e poco più di 3.000 unità immobiliari indipendenti. Le scelte del governo trovano critico il presidente dei costruttori del Friuli Venezia Giulia, Marco Bertuzzo, che evidenzia come una chiusura non gestita del super bonus può causare un pericoloso effetto domino a scapito delle famiglie. Bertuzzo rilancia la richiesta di una proroga di 6 mesi per evitare una corsa forsennata, col pericolo di pregiudicare la sicurezza dei lavoratori e la qualità degli interventi. Si dice consapevole della necessità e opportunità di chiudere la stagione del 110, ma contestualmente ritiene che si debba aprire una riflessione seria sul futuro dell'efficientamento degli edifici, in linea con le indicazioni europee. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Mentre oggi pomeriggio dalle 14 in poi in terza commissione si discuterà del suicidio assistito a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare che chiede di disciplinarne tempi e modalità, di disciplinare tempi e modalità sul fine vita, oggi al centro dei lavori ci sono stati gli interventi a favore delle persone con disabilità. Sentiamo. Un approccio più integrale e un riordino dei servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilità. Sono questi gli obiettivi della riforma avviata alla fine della precedente legislatura regionale e di cui si è parlato in terza commissione consiliare. Il quadro attuale, tracciato dal direttore del Servizio regionale integrazione sociosanitaria Ranieri Zuttion, è quello di una grande difformità di offerta, finanziamenti e compartecipazione sul territorio regionale. Diverso il numero delle persone prese in carico dai servizi, diversa la presenza di strutture residenziali o semiresidenziali e diverse le strategie dei servizi di inserimento lavorativo. Il nuovo sistema punta a garantire livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale in maniera equa e a uniformare gli assetti organizzativi, garantendo la qualità dei servizi resi nel rispetto delle specificità territoriali. Tra le novità la previsione di una struttura complessa specifica per la disabilità dell'adulto. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Con quasi 650 aziende provenienti dall'Italia e dall'estero e oltre 20.000 visitatori attesi, è tornata alla fiera di Pordenone SICAM, il salone internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l'industria del mobile. Quest'anno, per la prima volta, si tiene anche una sorta di fuorisalone, con eventi diffusi in tutta la città che vanno da concerti ad appuntamenti enogastronomici. Con più di 650 aziende espositrici dall'Italia e da altri 34 paesi esteri, la 14ª edizione di SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti per l'Industria del Mobile, in partenza oggi in fiera a Pordenone e in programma fino al 20 ottobre, si preannuncia la più grande di sempre, grazie anche a una nuova superficie espositiva. Sono attese oltre 8.500 aziende visitatrici da tutto il mondo. Carolina Giobbi, organizzatrice di SICAM. Quest'anno SICAM sarà la SICAM più grande di sempre, abbiamo oltre 650 espositori. La Fiera Pordenone ha costruito un nuovo padiglione che ci ha offerto 1900 metri quadrati netti in più. Ci aspettiamo tanti visitatori da tutto il mondo, abbiamo delle delegazioni che vengono addirittura da Ucraina, dal Perù, dagli Stati Uniti, quindi ci aspettiamo un'ottima edizione. Quest'anno sarà il primo anno post-Covid dove hanno finalmente riaperto completamente anche l'Asia. Abbiamo avuto tantissime registrazioni da Cina, Giappone, Corea, Thailandia. Le strutture alberghiere sono al completo in città e nel territorio provinciale, con presenze anche fuori provincia, da Lignano Sabbiadoro a Conegliano, fa sapere il presidente degli albergatori Ascom, Giampiero Zanolin. Tema sensibile come sempre la viabilità, che quest'anno conta anche sulla nuova Bretella Sud. Novità collaterale di questa edizione, il fuorisalone Enjoy SICAM, un programma di eventi diffusi in città realizzato in collaborazione con il Comune e una rete di soggetti del territorio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. A Tarvisio sono in pieno svolgimento i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la strada statale 13 Pontebbana in località Camporosso. L'opera, una volta completata, aumenterà i livelli di sicurezza stradale rendendo il traffico più fluido. I lavori di realizzazione della rotatoria sono stati consegnati alla fine del mese di agosto per un importo di 700.000 euro. Il termine dei lavori e l'apertura totale al traffico della rotatoria sono previsti entro la fine di dicembre. Stato di agitazione per i dipendenti della Riva Udi nell'azienda di trasporto pubblico locale del capoluogo friulano, a creare tensione, una spaccatura all'interno dei sindacati. Sentiamo perché. È alta tensione tra sindacati e tra due sigle, sindacale e azienda, nella società di trasporto pubblico del Friuli Centrale, a Riva Udine. Due settimane fa, oltre 300 dei suoi circa 550 dipendenti sono andati ai seggi per votare l'RSU, la rappresentanza sindacale unitaria. Un'elezione però nulla, secondo Arriva, e quattro delle cinque formazioni ufficialmente riconosciute. Fa eccezione la CGIL, che ha appoggiato l'iniziativa di un gruppo di lavoratori riuniti nell'associazione sindacale indipendente. Chiedono il superamento dell'RSA, una forma di rappresentanza in disuso in molte aziende, in cui la scelta dei delegati è in capo soltanto agli iscritti e non a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro tessera sindacale, come capita appunto per l'RSU. L'accordo interconfederale del 2014 prevede che il passaggio da RSA a RSU sia deciso dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali. Forti dei loro numeri, CGIL e ASI hanno convocato una conferenza stampa coinvolgendo la politica per chiedere di essere ascoltati. Sullo sfondo lo stato di agitazione è già aperto, un possibile sciopero, e il piano B, un ricorso in tribunale nel caso in cui non si ricucisse la spaccatura tra sindacati. L'azienda dice di essere neutra sulla questione perché è obbligata a seguire leggi e regole. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a proposito di trasporto pubblico, spostiamoci a Trieste. Dietro ad ogni linea, ad ogni percorso, c'è un grande lavoro di chi opera in questo settore, che è in continuo cambiamento e miglioramento anche grazie alle nuove tecnologie. Questa mattina abbiamo fatto il punto nella nostra trasmissione. Buongiorno Regione. Il trasporto pubblico prova a tenere il passo con i tempi e si aggiorna app, biglietto elettronico, corse notturne personalizzate. Del resto, la regione serve un'utenza ampia, sarà affrontata la popolazione 43 milioni di chilometri e 100 milioni di passeggeri l'anno, 12.000 corse, di cui 5.900 a Trieste, dove ogni abitante, di media, prende l'autobus 300 volte all'anno. Un'utenza esigente che risponde favorevolmente alle innovazioni. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione, andando a vedere come funzionano depositi e officina quando la città si sveglia. Maurizio Marzi Mildauer, presidente Trieste Trasporti. Trieste Trasporti persegue il suo obiettivo di innovare sempre più i mezzi e la flotta degli autobus. Il pagamento è contactless, permette di pagare il biglietto con la bancomat, la carta di credito, qualsiasi sistema NFC, e quindi consente ai nostri utenti di salire sull'autobus senza averlo materialmente in mano. Un importante passo avanti tecnologico, ma non basta. Stiamo anche perseguendo una innovazione dal punto di vista del servizio. Segnalo il notturno, un servizio servizio on demand fino alle 4 di mattina, che permette di portare a casa in sicurezza i nostri ragazzi, magari anche nelle periferie, i nostri studenti universitari, ma non solo, ovviamente tutti coloro che hanno bisogno di muoversi di notte a Trieste. I primi numeri sono incoraggianti, soprattutto nel mese di settembre. La riapertura della galleria di Piazza Foraggi intanto ha decongestionato un po' il traffico, ma rimangono alcune criticità che a volte innervosiscono gli autisti, anche se mediamente il rapporto con gli automobilisti è migliore che in altre realtà. Nicola Chiorri, coordinatore di esercizio Trieste Trasporti. La maggior parte delle volte si lamentano proprio a causa del traffico o delle macchine che sono ferme in seconda fila. Questo succede principalmente il mattino, quando ci sono le scuole, il traffico è maggiore e l'autobus viaggia pieno. In generale queste sono le principali lamentele che gli autisti mandano al centro radio. L'utenza si comporta bene. L'utenza è meravigliosa. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Non c'è ancora una decisione, che arriverà a ore, per il big match di venerdì in programma contro il Vicenza. La Triestina non ha ancora una casa. La situazione del manto erboso dello stadio Rocco, specie dopo la pioggia di domenica, non convince ancora la società rossola bardata, che era stata costretta ad emigrare a Fontana Fredda nell'ultimo mese per le partite casalinghe a causa delle pessime condizioni del campo da gioco dello stadio triestino, rifatto dopo il concerto dei Mane. Gli agronomi della Lega Pro hanno dato un ok di massima per la disputa della partita nell'impianto di Valmaura, ma la Triestina nicchia temendo che il campo possa essere pericoloso per i propri giocatori. È in programma un vertice tra Comune e Triestina con la mediazione della Regione. In caso il manto erboso non fosse ancora attecchito come auspicato dalla società alla bardata, la partita sarebbe disputata a Fontana Fredda. A causa di problemi di ordine pubblico è possibile che si giochi nel pomeriggio e senza i tifosi ospiti, come auspicato dalla questura di Pordenone, o addirittura a porte chiuse. Questa edizione del Giornale Radio si conclude qui. Grazie a Carlo Morello per aver curato la parte tecnica e a Valentina Veneruso per aver collaborato in redazione. Da Alessandra Zigaina e Anna Vitaliani un buon proseguimento di ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.